Mario Borghezio, buonasera. Buonasera e buona Padania a tutti. La Padania proprio cade a fagiolo in questo discorso. Caro Borghezio, lei tifa, tiferà per l'Italia oppure ha nel cuore solamente la Padania? Sto parlando dei mondiali perché Renzo Bossi, prima a Radio 24, poi ha ripetuto a Vanity Fair le stesse cose e oggi ci sono polemiche su questa frase, io non tiferò Italia ai mondiali. Lei tiferà Italia o no? Ma io tiferei molto più volentieri Padania. Però in mancanza della Padania si potrebbe anche esaminare l'idea di tifare per i nostri. Io non sono esaminare l'idea, Borghezio, non mi faccia il diplomatico, esaminare l'idea, o uno tifa per l'Italia o no, bisogna vedere cosa ci presentano in campo, se ci presentano come fa la Francia una squadra di marocchini con la maglia francese, beh certo non mi entusiasmerebbe. Per esempio, mi faccia un esempio, cioè se convocassero Balotelli che marocchino non è, per esempio. No, se il problema è quello, il problema si pone quando la configurazione generale è quella di una composizione tutta multietnica, se si tratta di un giocatore. Ho capito, ma l'Italia non ha mai avuto una composizione multietnica, mi scusi. Ecco, no, se ci fosse una situazione di questo genere, io non tiferei certamente per la squadra nazionale. Per esempio, verità, faccio un esempio, Borghezio. Ma io le dico con molta chiarezza, a me della nazionale non me ne frega assolutamente niente. Ma a lei non gli frega niente della nazionale italiana o in generale del calcio? No, diciamo specificatamente anche della nazionale, non credo, non faccio parte di quelli che si entusiasmano o muoiono di gioia se la Però lei la ha detto una cosa, se la nazionale fosse composta di marocchini, cioè se fosse una nazione multietnica, proprio non ci penserebbe nemmeno lontanamente. No, appunto, il rischio ormai è quello, perché la Francia è vicina e quindi chi lo sa che magari se non quest'anno, il prossimo anno, le prossime mondiali, ci volessero proporre una situazione di questo genere. Ma una situazione, per esempio le faccio un solo esempio perché è l'unica possibilità che vedo. Lippi chiama Balotelli, lei che fa? È contento o no? La Padania era contenta? No, io sarei indifferente alla presenza di un giocatore di colore, di uno sportivo che è italiano, peraltro. Sì, italiano. Mentre mi preoccuperebbe molto e mi darebbe un enorme fastidio se ci fosse una rappresentanza del paese al quale appartengo, anche se naturalmente il mio cuore batte per la Padania, che avesse un carattere multietnico e non fosse più identificabile. Ma faccio un esempio però, che ne so, gli oriundi, per esempio c'è Camoranesi che è un oriundo. Cioè gli oriundi sono italiani, sono gente oriundi, vuol dire appunto gente che è nata in altri territori ma è da famiglie italiane. Io ho un enorme favore verso l'inserimento degli oriundi che se sono di origine italiana, se quindi appartengono alla nostra identità anche etnica. Invece? In una compagine nazionale non deve aver posto chi non rappresenta questo, se non eccezionalmente. Le eccezioni confermano la regola, ma la nazionale dovrebbe rispecchiare. La nazionale padana non sarà multietnica, questo glielo dico. Ma questo già non lo è multietnica. Non lo sarà mai. La nazionale padana sarà padana.